Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Signor direttore, ma insomma, com'è oggi la reale situazione della disoccupazione in Italia in confronto con le altre importanti nazioni europee? È in grado di chiarircelo almeno lei finalmente? A me pare che ci sia una confusione terribile in materia, perché secondo me qualche nostro politico fa il furbo e qualche giornale non lo rileva. Dico così perché qualche giorno fa i quotidiani riportavano la notizia che la disoccupazione da noi era recentemente salita, fin quasi all'8,5%, raggiungendo livelli piuttosto preoccupanti. D'altra parte, esponenti del governo hanno poi riferito che la cosa non sarebbe grave, visto che in Europa la disoccupazione è mediamente sul livello del 10%. Ora, consideriamo che in Italia i lavoratori di cassa integrazione non figurano statisticamente tra i disoccupati, in quanto formalmente ancora connessi a un rapporto di lavoro, ancorché spesso destinato a non ricomporsi nel concreto. All'estero, per quanto mi risulta, l'istituto della cassa integrazione per lo più non esiste e quindi tutti quelli in età da lavoro che non riescono a trovare un'occupazione effettivamente retribuita figurano tra i disoccupati e tra l'altro maturano tutti un'indennità apposita, cosa sconosciuta in Italia. In Italia la cassa integrazione non è prevista per le aziende di dimensioni al di sotto del medio piccolo e i disoccupati sono solo quelli che hanno perso un lavoro. Oppure sono io che mi sbaglio? Per favore, almeno lei ci aiuti a fare chiarezza. Renda omogenei i dati per consentirci un confronto con l'Europa. Gliene saremo tutti grati. Giorgio. Caro Giorgio, le sue osservazioni sono del tutto corrette, ma la risposta che lei mi chiede è praticamente impossibile. Innanzitutto sgombriamo il terreno da un sospetto. Nessuno può fare il furbo con le cifre. Le statistiche sono una cosa seria e il nostro istituto di statistica, l'Istat, ha certamente una grande competenza e affidabilità. Lei mi chiede una statistica in cui sia comparabile la realtà italiana della disoccupazione con quella europea. Ebbene, questi numeri esistono e sono calcolati da Eurostat, l'ufficio statistico europeo, che per definire lo status di disoccupato utilizza i criteri dell'Organizzazione Mondiale del Lavoro. Eurostat definisce disoccupate le persone tra i 15 e i 74 anni che ovviamente sono senza lavoro, hanno la possibilità di iniziare un lavoro nell'arco di 2 settimane e cercheranno verosimilmente un lavoro nell'arco delle successive 4 settimane. La percentuale di disoccupazione viene calcolata sul totale delle forze di lavoro. Secondo questi parametri, gli ultimi dati sulla disoccupazione riferiti a marzo di quest'anno pongono l'Italia a quota 8,8% rispetto a una media europea del 9,6%. La disoccupazione più alta è in Lettonia, 22,3%, e in Spagna, 19,1%. La più bassa in Olanda, 4,1%, e in Austria, 4,9%. Detto questo, è vero che in Italia non sono considerati disoccupati coloro che sono in cassa integrazione, anche se è verosimile credere che una parte di questi non rientreranno nelle aziende a cui restano per questo periodo legati. È un fenomeno rilevante. La cassa integrazione ha interessato lo scorso anno più di 1 milione di lavoratori, ma in molti casi per un numero di ore o di giorni limitato. Non è quindi possibile dire quanti siano i disoccupati effettivi in Italia. Sicuramente sono più dell'8,8% calcolato secondo i parametri europei. Senza dimenticare che in Italia il tasso di occupazione è di poco superiore al 57%, oltre 7 punti percentuali in meno della media europea. Questo perché è possibile essere senza lavoro ma non essere considerati disoccupati perché il lavoro non lo si vuole, non lo si cerca o nella maggior parte dei casi non si spera più di ottenerlo. Al di là delle cifre comunque, la situazione italiana sul fronte del lavoro deve essere fonte di preoccupazione e di interventi politici. Il fatto che esistano maggiori ammortizzatori sociali rispetto agli altri paesi va comunque considerato in maniera positiva, perché il nostro sistema offre maggiori sicurezze e protezioni ai lavoratori e risponde meglio alle esigenze di flessibilità delle imprese in un periodo di difficoltà. Gentile direttore, la British Petroleum pagherà, ci assicura il presidente Obama dopo aver sorvolato la marea nera in Louisiana. Ma come potrà il denaro, che è ancora più sporco del petrolio, ripagare l'umanità, l'ambiente e il mondo animale per questo ennesimo, spaventoso, catastrofico dramma? Io credo che saremo sempre in ritardo per una riflessione doverosa. C'è una considerazione che ritengo un obbligo per tutti gli uomini politici del pianeta. Dare molta, molta, molta più importanza all'ambiente, all'ecologia, a quello che è il nostro unico e insostituibile habitat. In tutta la storia dell'umanità, da quando abbiamo scoperto le sostanze tossiche, inquinanti, chimiche o nucleari, se ne è sempre sottovalutata la pericolosità, per dare la precedenza agli interessi economici e al potere che questi procurano. Abbiamo assistito a guerre interminabili per il petrolio, abbiamo lasciato troppa libertà ad enormi multinazionali che hanno riversato tonnellate di sostanze tossiche nelle falde acquifere e nell'atmosfera. La politica mondiale ha sempre agito come se il nostro pianeta fosse indistruttibile e inattaccabile. I governi raramente si pongono un quesito che dovrebbe essere al primo posto di ogni ordine del giorno. Che cosa lasceremo ai nostri figli? Marco. Ho ascoltato la vostra trasmissione sulla grande distribuzione e vorrei segnalare due punti che non sono stati evidenziati. Il primo è che, di fatto, la riduzione delle aziende commerciali comporta il passaggio da un sistema di concorrenza a un oligopolio. Questo ci espone ai fallimenti del mercato. Il secondo è che, di fatto, la grande distribuzione, per motivi di costi e di logistica, ha necessità di una forte omologazione dell'offerta, che deve comprendere prodotti sempre uguali e con un valore intrinseco basso. Questo ha favorito i prodotti di importazione e tagliato fuori le piccole manifatture locali, che nel nostro sistema rappresentavano anche il luogo della creazione della ricchezza da consumarsi coi consumi. L'effetto è una progressiva diminuzione del potere d'acquisto della popolazione, che si riflette su una maggiore propensione per i prodotti di qualità più bassa, cosa che a sua volta aumenta la diminuzione del potere d'acquisto. Anche sull'export, a lungo andare, gli effetti non possono che essere nefasti. Un nuovo, piccolo produttore innovativo, ad esempio uno stilista, non ha di fatto nessuna possibilità di portare sul mercato le sue creazioni, non avendo i numeri per poter servire una catena e offrendo prodotti presumibilmente di nicchia, sui quali difficilmente un ufficio acquisti scommetterà. Non ha quindi possibilità di crescere fino a poter arrivare al punto di poter esportare. I marchi già affermati, invece, non potranno che ridursi di numero per il normale andamento vitale di qualunque azienda. Roberto. Mentre il Ministero dell'Istruzione sbandiera il protocollo di intesa a favore degli alunni con disturbi specifici di apprendimento come la dislessia, e mentre è in discussione alla Camera una legge nazionale di tutela, succede che l'Invalsi, emanazione del Ministero, nega agli alunni con DSA l'utilizzo degli strumenti compensativi nel corso delle prove di valutazione dell'apprendimento che si svolgeranno nei prossimi giorni per le classi seconda e quinta elementare e prima media. Gli strumenti compensativi, tra cui il computer, già previsti per legge dal DPR 122, consentono ai bambini dislessici di bypassare le difficoltà di lettura e scrittura per poter eseguire i compiti, seguire le attività scolastiche, studiare e apprendere alla pari con i compagni. Ma per queste prove Invalsi, invece no. Non possono usare il computer né un lettore esterno, solo ed esclusivamente carta e penna, poiché dovranno svolgere i test come tutti gli altri. Inoltre, la loro prova sarà tenuta a parte e non rientrerà nella media. Quindi, oltre al danno, anche la beffa, una beffa che odora di emarginazione. Mio figlio, 11 anni, dislessico disgrafico, è intelligente, utilizza normalmente anche a scuola il PC per leggere e scrivere e ha un ottimo rendimento scolastico. Nelle esercitazioni effettuate sulle prove Invalsi dell'anno scorso ha ottenuto risultati buoni e in alcuni casi ottimi. Perché dovrei sottoporlo alla frustrazione di affrontare una prova ufficiale senza gli strumenti che utilizza abitualmente e ai quali ha diritto? Perché dovrei mettere a repentaglio la sua autostima così faticosamente acquisita? Perché dovrei calpestare il percorso di autonomia costato anni di intenso lavoro? A chi giova la crudeltà di farlo sentire nudo, profondamente inadeguato, incapace di agire, assolutamente solo di fronte alle sue difficoltà? Il fatto che tali prove non vengano valutate individualmente è consolazione di poco conto, poiché sicuramente mio figlio investirà tutto se stesso nell'affrontarle al meglio. Ma l'Invalsi non ha voluto tenere in considerazione tali aspetti, nonostante l'invito da parte dell'Associazione Italiana Dislessia riguardo alla modifica della nota in questione. Il triste risultato è che, come me, moltissimi genitori opteranno per il male minore, tenendo a casa i propri figli DSA, che saranno assenti per diritti negati. Invito l'Invalsi a verificarne la percentuale e a darne pubblica comunicazione. Il dato sarà sicuramente superiore alla media degli assenti, segno indiscutibile dell'insuccesso formativo ed educativo di un ente il cui obiettivo è quello di valutare la qualità della scuola italiana. Un paradosso all'italiana, ma in questo caso a danno di bambini indifesi. Laura, mamma di un bambino dislessico. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.